La versione di Oscar Giannino. This is the end. Ecco che Oscar Giannino vi risaluta in questo martedì primo di ottobre, dopo il grande Matteo Caccia e prima di lui Giorgio Telesforo, in attesa che poi i mercati con Sebastiano Barisoni dopo di me vi tengano incollati, spero, a Radio 24. Avviso tutti coloro che ieri hanno provato a sentire in podcast ieri sera e che hanno protestato perché il podcast non era ancora attivo, che stamattina abbiamo risolto il problema, quindi potete trovare in podcast quando volete sul sito di Radio 24 la registrazione, al di là di chi, spero tanti e sempre di più, vorranno ascoltarci in diretta. Vi segnalo anche che c'è per rete o richieste l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, mentre invece per i messaggi, lo sapete, 349-238-6666, numero verde 800-24-0024. Allora, oggi è purtroppo imposta l'argomento, perché tutti sono in attesa di quello che avviene domani, quando il governo va in aula a riferire sulla crisi animata da Berlusconi, che ieri ha innovato il rito dell'inquisizione, ha chiamato i dissidenti, non li ha fatti parlare, gli ha risparmiato la tortura, ma gli ha dato per scontato la biura. Ma siccome le cose vanno un po' diversamente, forse i mercati non credono alla crisi del governo Letta bis, allora abbiamo deciso oggi di parlarne con un ospite un po' particolare, perché è un ex presidente del Consiglio e colui che fu chiamato nell'autunno del 2011 a salvarci dal bar, molto criticato poi per le tasse che ci ha messo. Stiamo parlando appunto del professor Monti, che però io voglio ringraziare di essere qui con noi. Grazie a voi. Ecco, la prima domanda è semplice: le imprese italiane, questa è la radio di Confindustria, tutti i lavoratori e sindacati hanno un'enorme preoccupazione per gli effetti dell'instabilità su una recessione che resta forte, mentre altri paesi euroscassati hanno già il segno più nella loro economia. Dal suo punto di vista, gli effetti di instabilità sulla crescita italiana di una crisi come questa, quali sono, quali potrebbero essere? Potrebbero essere grandi questi effetti sia sull'economia reale, perché determinerebbero incertezza nella domanda, incertezza nelle prospettive e quindi nei comportamenti sia dei consumatori sia delle imprese, sia naturalmente sui mercati finanziari, anzi in primis sui mercati finanziari. E a questo riguardo è interessante quello che ha scritto questa mattina il Financial Times, dicendo che ieri in fondo gli effetti sui mercati ci sono stati rilevanti ma non giganteschi, e dice questo anche perché molti stimano che possa esserci una internal revolt, lo tradurrei in modo più dolce, un forte ripensamento contro la direttiva di Berlusconi dentro il suo partito. E poi, al di là degli effetti sull'economia reale, sull'economia finanziaria, sui mercati, questa crisi generata in questo modo farebbe ripiombare molto molto in basso la credibilità dell'Italia proprio come paese in grado di stare nella sfida internazionale, perché non si capirebbe come gli eventi relativi ad una singola persona, per quanto autorevole e ormai di rilievo storico, possano da un intero partito, da un intero paese, in definitiva, se non c'è una reazione adeguata, essere messi al di sopra del vero, genuino interesse nazionale. Professor Monti, secondo lei il rischio paventato in caso di mancata legge di stabilità e di mancato rispetto del 3% dopo che eravamo usciti con tanti sacrifici dalla procedura di infrazione, di un avvento della Troica, di un commissariamento, di una legge di stabilità scritta da Europa, BCE e Fondo Monetario, l'avevamo sempre evitato, questo rischio è un rischio concreto oppure no secondo lei? Questo è un rischio concreto, questo è un rischio concreto. Io sono sempre stato, come tutti gli europeisti, a favore di cessioni di sovranità a livello sovranazionale da parte degli Stati membri, purché fossero simmetriche e deliberate per costruire qualche cosa di più grande insieme in Europa, ma una ripresa della procedura per disavanzo eccessivo e peggio un commissariamento con l'arrivo della Troica. Ricordo, Troica vuol dire Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, che va nella capitale di un paese e praticamente prende il comando della politica economica. Questo è una forma di neocolonialismo voluta dalle istituzioni internazionali per evitare drammatici effetti di contagio, ma noi siamo, l'Italia, l'unico paese dell'Europa mediterranea, da Cipro al Portogallo, con l'eccezione di Malta, siamo gli unici che non sono sotto questo regime di amministrazione straordinaria e di troica. Ed è stato, credo, importante per la fiducia degli italiani in noi stessi e anche per la percezione dell'Italia in Europa e nel mondo, che l'Italia ce l'abbia fatta da sola, con sacrifici, ma da sola. E anche lei usa un termine che sottolinea i nostri ascoltatori, una forma neocoloniale. Lei sa, professor Monti, che per chi tenta di difendere l'euro e i bassissimi tassi di interesse che ci ha dato per i primi 8 anni è sempre più dura il circuito dell'informazione, perché il sentimento anti-europeista, anti-euro, non per difendere tutte le regole dell'euro che vanno anche cambiate, ma insomma è molto forte, perché il populismo spinge molto su questo pedale. Le chiedo, domani si va in aula, alla Camera e al Senato, lei che prevede? Si vota, non si vota? Come la vede a questo momento, questa confusione che è in corso? Ma la tecnica di ciò che il Presidente del Consiglio dirà e di ciò che chiederà ai due rami del Parlamento non è ancora completamente chiara. Comunque la mia posizione è che occorra fare in modo, e io credo che se ciascuno per una volta ragiona con la propria testa e con la propria coscienza, questo sarà possibile, fare in modo che il governo Letta vada avanti non con una prospettiva raffazzonata e giusto per andare avanti, ma vada avanti, anzi, recuperando maggiore slancio, anche perché si sarà capito che non rende né al Presidente del Consiglio, né al Governo, né al Paese, se si ricerca una stabilità soddisfacendo troppo le richieste di questo o quel grande partito. Vada avanti verso il semestre europeo, e io direi almeno fino al 2015, nel frattempo faccia anche la proposta di legge elettorale o stimoli il Parlamento a farla, e quindi questo è ciò che uscirà, io credo, se ci sarà un voto responsabile. Potrebbe anche viceversa determinarsi una rottura, ma vorrei sottolineare il paradosso: la rottura, la caduta del governo avverrebbe se proprio coloro che tanto spesso si sono richiamati all'interesse nazionale contro gli interessi dei grandi paesi che vogliono mettere la mano sull'Italia, bene, se questi non avranno un soprassalto di responsabilità rispetto all'indirizzo preso dal presidente Berlusconi, loro che sono stati cultori a modo loro e con grande forza verbale dell'interesse nazionale, consegneranno l'Italia nelle mani delle grandi potenze. Ecco, qui ci fermiamo per la prima interruzione, l'interruzione che dobbiamo passare la parola alle informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Abbiamo come ospite il professor Mario Monti, e il professor Mario Monti, quando ho guidato il governo, io da microfono Radio 24 non gliene ho risparmiate, perché anch'io sono stato tra quelli che ritengono che la strada con troppe tasse rispetto ai tagli di spesa sia stata una strada che ha approfondito il nostro calo di prodotto, di investimenti, di reddito pro capite, che è tornato per le famiglie ai livelli, a prezzi correnti di quello del 1988. È una strada di continuità che purtroppo la destra, la sinistra e i governi tecnici hanno poi seguito. Ma con il nostro ospite stiamo ragionando di che cosa può avvenire domani su questa crisi, e riprendiamo il ragionamento perché il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha detto di augurarsi un voto da parte dei moderati molto ampio, ed è chiaro che stava parlando dei parlamentari del PDL dissidenti. Ecco, professor Monti, lei crede a questa possibilità? Ci sta lavorando? Che cosa può avvenire? Cambia il segno politico del governo se una bella parte di parlamentari, ex ministri del PDL, sostiene il governo Letta? Sì, io auspico che il governo ci sia, il governo possa andare avanti, o questo governo o un Letta bis, ma possa andare avanti, ed è interesse di tutto il paese che la parte moderata, si può discutere ad infinitum su cosa sia moderazione, sì, però oggi in questo contesto significa che se c'è una parte moderata rilevante, significa che il governo non è guidato dal PD soltanto, e in particolare da quella parte del PD che non è portata alle riforme, che è portata alla conservazione, con grave danno dell'occupazione, soprattutto dei giovani. Bene, io quindi desidero anch'io che il governo vada avanti e che ci sia la parte moderata la più larga possibile, e qui mi permetto di rivolgere un appello, non tanto come presidente di Scelta Civica, ma come persona che è stata chiamata per aiutare l'Italia a farcela con le proprie forze, e siamo a buon punto di questo cammino, come persona alla quale meno di un anno fa il presidente Berlusconi aveva chiesto se non volesse guidare i moderati italiani. Quindi io mi rivolgo ai moderati italiani che fanno parte del PDL per invitarli veramente alla riflessione. Qui non si tratta di Scelta Civica, UDC, PDL, ma per favore cerchiamo di staccarci tutti un attimo verso l'alto. Abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti dei nostri figli, dei nostri nipoti. Qui si tratta di scegliere se andare avanti a sostenere la posizione che è dettata da un grande leader che non ammette molta discussione e che in questo momento comprensibilmente mette il proprio interesse al di sopra di qualsiasi altra cosa, mentre in passato ha fatto molte cose per il paese, e viceversa scegliere l'interesse del paese. Io penso al deputato, al senatore del PDL che fa parte del Partito Popolare Europeo. Ecco, voglio dire, e penso di farlo a titolo legittimo, perché l'anno scorso c'è stato il vertice del PPE a Bruxelles, eravamo presenti il presidente Berlusconi e io, e il vertice del PPE ha concluso dicendo che la politica che auspicava prevalesse in Italia, andasse avanti in Italia, era quella condotta dall'allora governo da me presieduto. Io penso, non mi schiero né contro né a favore del PPE, è una famiglia politica che sento comunque profondamente vicina, ma se i deputati e i senatori del PDL si riconoscono nel PPE come è, ebbene sappiano che se seguono questa cosa che il presidente Berlusconi chiede a loro di fare, si mettono su una traiettoria che è completamente opposta a quella del PPE, perché di fatto mettono a pregiudizio la stabilità della zona euro, seguono istinti anti-europei e di fatto però consegnano l'Italia alle euroburocrazie, come le chiamano loro. Esatto. E quindi veramente è il momento di creare in Italia, al di là dei partiti, al di sopra dei partiti, mi permetto di dire, un movimento di responsabilità e di vera tutela dell'interesse nazionale, per portare sempre più avanti in Europa un'Italia forte, che contribuisce anche a cambiare l'Europa nel senso che noi vogliamo. E questo lo si può fare anche quando non collimiamo col pensiero della Germania, è possibile con la persuasione anche spostare la signora Merkel, come abbiamo fatto con la creazione dello scudo anti-spread. Allora, questo è un punto su cui vorrei appunto la sua ultima riflessione, perché sottolineo a chi è in ascolto che questo appello ai parlamentari del PDL, lo avete sentito dal professor Monti, in vista di una scelta, che è una scelta coerente a quella di impedire che arrivi il commissariamento, ma è una scelta coerente al tragitto moderato del PDL, del PPE, fa capire che se questo appello verrà raccolto ci potrebbero essere novità anche nella geografia politica italiana, ma questo si vedrà. L'essenziale adesso è il passaggio dell'aula, l'esercizio della responsabilità. Monta. Le chiedo, professor Monti, siccome lei nell'opinione pubblica non è che gliel'abbiamo fatta pagare poco, la via tutto tasse e però anche del contenimento di spesa che c'è stato nel suo anno, ma questo governo, se va avanti, riuscirà in quello che chiedono le imprese e l'Europa insieme, cioè in un intervento significativo sul costo del lavoro finalmente, invece che perdere tanti mesi come è avvenuto su IMU e poi a vedere anche l'aumento dell'IVA? Ci si riuscirà davvero? Ci sono le risorse secondo lei? Beh, ci sono e ci sarà comunque sia un ripensamento nello stesso Presidente del Consiglio da domani in poi, e certamente noi chiederemo che ci sia una spinta per le riforme parecchio più vigorosa di quella che c'è stata finora, e anche da questo punto di vista la presenza di a sostegno del governo di una robusta compagine del PDL che si sia staccata da una guida che era stata storicamente molto rilevante ma che è diventata penalizzante. Ecco, come sarebbe bello fare insieme, e credo che lo stesso Presidente Letta sarebbe molto sensibile a questo, un po', ma veramente, di quella rivoluzione liberale che nel 94 Silvio Berlusconi ha promesso agli italiani conquistandone la simpatia e il voto. E che, questo però lo dico io senza farlo dire a lei, in 20 anni è stata usata come impegno elettorale, poi contraddetto sempre dando la colpa agli altri, perché le cose concrete quando Berlusconi governava andavano nella parte opposta. Noi ringraziamo il Presidente, il Professor Monti, vedremo se questo suo auspicio verrà raccolto. Certo, la responsabilità è il coro unanime che viene dal mondo del lavoro e dall'impresa. Grazie Professor Monti. Grazie a lei. Ed eccoci, allora, in conclusione sentiamo rapidissimamente la voce dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Lorenzo. Lorenzo da Treviso, rapido, ma intanto la voce a te. Grazie Lorenzo. Buonasera Giannini. Io le chiedo, comincio con una domanda, le chiedo se secondo lei esiste qualche uomo politico che non scarichi sui suoi colleghi o avversari i suoi fallimenti. Io comunque volevo dire questo, che secondo me il governo Monti è stato la sciagura peggiore che potesse capitare in Italia nel dopoguerra, perché è arrivato in pompa magna, doveva fare sistemare i conti, doveva fare i tagli, ha saputo solamente aumentare le tasse, aumentare le accise, creare una nuova categoria che non conoscevamo, che si chiamano esodati, e che per chi ne conosce qualcuno sono situazioni drammatiche. Sono drammatiche, sì. E perciò non so come con che Boria venga lì a parlare di Financial Times, di PPE, ma Lorenzo, che prendere il contatto con la realtà, chiarissimo, con la vita di tutti i giorni, con le persone. Chiarissimo. Cercano di sbarcare il lunario. Allora, Lorenzo, chiarissimo, io ho ritenuto un appello di Monti qua al PDL a essere responsabile a non portarci la troica. Questa è la parte secondo me più significativa, ma rispettiamo il giudizio di tutti. Massimo da Pisa, rapidissimo. Niente, Massimo. Buonasera. Hai proprio pochi secondi. Buonasera, io sono contentissimo del suo ritorno perché sono suo e poi? Sfegatato. E poi? Spero vivamente da Pisano che il governo Letta vada ancora avanti. Ecco, questo è un atto di responsabilità nazionale. Grazie Massimo, anche secondo me bisogna un po' pensarla così. Tanto appuntamento a domani e viva Barisoni che adesso mi succede. Ciao! La versione di Oscar.